άνοιξε την καρδιά. Κομίτη κλείουσε το στόμα στους πίτες. Κομίτη κλείουσε το στόμα και φύγε. Στην ελευθερία. Thank you.

παίρνεις τα παιδιά. Έλα πάρε και το χούτο. Μικρό μικρό σου το δώσα. Μεγάλο θέρε μου το μεγαλώσαν ψηλό βουνό. Ίσιοσαν κι ίσιοσαν κι Thank you. In questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia sconfinata. In questa società, nulla, assolutamente nulla riguarda le donne. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile. Swami.

Thank you.